Buongiorno, possiamo accomodarci? Grazie per chi risponde. Buongiorno anche a tutti gli altri. Che bello, è una festa, sicuramente una delle celebrazioni più belle che noi viviamo come Chiesa sono i battesimi. Quanti sono d'accordo con noi? Anche la Bibbia è d'accordo con tutti noi, perché è una celebrazione meravigliosa, è la celebrazione della vita, è la celebrazione di un passaggio da quella che è una vita passata a una vita rinnovata, da quello che è stato il passaggio della storia prima di Cristo e dopo Cristo, che noi testimoniamo essere possibile anche nella nostra vita individuale. Tu puoi avere, e forse hai già avuto questa esperienza nella tua vita, dove sei passato un momento storico che puoi segnare, una data precisa, dove tu puoi segnare il passaggio da quella che era una vita vecchia a una nuova vita, vita rinnovata in Cristo Gesù, esattamente come è successo nella storia. C'è stato un prima di Cristo e un dopo Cristo, e noi siamo nel 2016 dopo Cristo, e l'umanità è da sempre cambiata da quando Gesù è venuto, soprattutto, anzi, solo per quella parte dell'umanità che ha riconosciuto Lui. E noi questa mattina siamo riuniti perché riconosciamo in Cristo Gesù il nostro Salvatore, colui che rinnova le nostre vite. È per questo che cantiamo, è per questo che urliamo il suo nome ed è per questo che abbiamo una gioia che non è falsa ma è vera, nasce dal profondo del nostro cuore. Ed è una gioia come Chiesa riunirci, quale famiglia di Dio, perché questa è la Chiesa, e celebrare Leo, Sara, Mimma, celebrare Luigi, Gianluca. Ah no, loro non si battezzano, sono i battisti, sono vestiti in bianco. Io vorrei sapere chi gli ha dato quella tunica a Leo. Leo, puoi alzarti, so che ti metto in imbarazzo. Non so se si vede dietro. Sali un attimo qui sopra, proprio per, visto che sei tu il... Cioè, non è possibile vederti in questa condizione. Ti rispettiamo. Siamo grati per il tuo coraggio di aver indossato questa cosa che non si può vedere, e ti prometto che presto avremo delle magliette, anche se tu non ti battezzerai di nuovo, quindi facciamo un applauso a Leo, è un fantastico ragazzo! Dai prossimi battesimi avremo le magliette, ok? Non avremo più queste tuniche bianche. Perché abbiamo avuto queste tuniche bianche finora? Per una questione di igiene. Però adesso vogliamo ignorare l'igiene e quindi avremo le magliette normali, classiche. No, è una questione che è bello anche vederli in bianco, perché effettivamente come colore ci sta tutto. La Bibbia dice che attraverso Cristo Gesù noi abbiamo la possibilità di passare dalle tenebre alla sua luce, e in 1 Timoteo 2,9 dice, descrive questa luce come meravigliosa luce, perché la luce di Cristo è meravigliosa. Io voglio dare il benvenuto in modo particolare a chiunque è in mezzo a noi per la prima volta e dirti: questa luce meravigliosa non è data da vivere solo a pochi, ad alcuni eletti, a una cerchia ristretta di persone, ma Gesù è venuto per te, per portare luce dove tu vivi tenebre, per portare luminosità nella tua vita, nella tua quotidianità. Gesù non è il Dio che porta luce la domenica mattina. Dio è il Dio che porta luce la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, e non fatemeli dire tutti, ma tutta la settimana Gesù ci porta luce. Noi siamo qui perché non celebriamo un Dio che è religioso, non siamo qui per svolgere un rituale religioso, siamo qui perché siamo testimoni di una vita possibile quotidianamente con il Dio della luce, che porta luce anche quando siamo a lavoro, anche quando siamo a scuola, anche durante le interrogazioni, vero Leo? Anche durante gli esami, anche durante quei momenti bui della nostra vita. Quanti vivono un periodo buio? Forse tu sei venuto qui questa mattina e sei nel cuore di un tempo, di una stagione buia della tua vita. Beh, sei nel posto giusto, al momento giusto, per ascoltare le parole giuste. Gesù ti ama e vuole portare luce in qualsiasi stagione della tua vita. Stamattina andremo a leggere qualcosa di bellissimo. Questo è un messaggio che è nato da una mia curiosità. La mia curiosità era scoprire o riscoprire e leggere di quei primi cristiani che hanno vissuto il battesimo, quelle prime, primissime persone che si sono battezzate nel nome di Cristo Gesù. Furono in tanti e furono in un solo giorno che fecero questa scelta ed è meraviglioso leggere in Atti degli Apostoli quanto è accaduto. E io voglio darvi un po' una panoramica, contestualizzare i versi che andremo a leggere. Ci troviamo negli Atti degli Apostoli, è un libro della Bibbia. Noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio e dipendiamo da quello che c'è scritto nella Bibbia, non dipendiamo da quello che è una legge, una filosofia o una tradizione di uomini. Noi dipendiamo dalla parola vivente di Dio che ci è stata tramandata perché Lui ha voluto che nero su bianco avessimo l'opportunità sempre di confrontarci con la verità, che è la sua parola, la Bibbia. E Atti degli Apostoli è uno dei libri contenuti nella Bibbia ed è il proseguo della narrazione dei Vangeli, in maniera specifica del Vangelo di Luca. Infatti quest'autore, dopo aver narrato tutta la storia di Cristo Gesù, continua la storia, continua la narrazione negli Atti degli Apostoli e spiega, scrivendo quello che è accaduto dopo la risurrezione di Cristo Gesù. E noi leggiamo che dopo la risurrezione di Cristo Gesù, Gesù si è manifestato e si è presentato ancora ai discepoli per 40 giorni. Per 40 giorni ha ancora parlato, per 40 giorni ha ancora insegnato, per 40 giorni ha dato ancora istruzioni. E poi il 40° giorno leggiamo che è asceso, è stato portato in cielo ed era sotto gli occhi di tutti. E questi discepoli, stravolti da questa immagine di Gesù tirato su nei cieli e ora seduto alla destra del Padre, vivono 10 giorni di attesa per quella che era una promessa che Gesù ha fatto a loro, la promessa di una discesa. Gesù ascende e promette che qualcosa sarebbe sceso, e sarebbe sceso lo Spirito Santo. Quindi il 50° giorno, dopo 7 settimane dalla risurrezione di Cristo, scende lo Spirito Santo in questi discepoli in una maniera pazzesca, tutta Gerusalemme. E a Gerusalemme in quel periodo, in quei giorni, c'erano persone da tutte le regioni vicine per la festa della Pentecoste che si viveva in quei giorni a Gerusalemme. E in quel giorno i discepoli sperimentano una manifestazione potente di Dio. Si sente un suono che attira le folle, tutta Gerusalemme sente questo suono assordante ed è il vento dello Spirito Santo che riempie il luogo nel quale i discepoli erano riuniti, e poi delle lingue di fuoco scendono e appaiono agli occhi di tutti sopra i discepoli, e loro cominciano a parlare in nuove lingue, cominciano a parlare in lingue straniere, riescono a comunicare con tutti gli stranieri che erano lì a Gerusalemme e incominciano ad annunciare nella loro lingua le meravigliose opere di Dio. Questo è il contesto, e in questo contesto, in questa meravigliosa manifestazione di Dio, dove Dio opera grandi miracoli, grandi prodigi, alcuni degli abitanti di Gerusalemme, alcune delle persone lì, scettiche, giudiziose, cominciano a ingiuriare questi discepoli e a dire: sono ubriachi, sono fuori di senno, sono impazziti. Altri rimangono stupiti, perplessi. E in questa confusione, in questo tumulto, dove la folla è lì che assiste a questa manifestazione, alcuni scettici, alcuni che deridono i discepoli di Gesù. E fatemi aprire una parentesi. Se segui Gesù, sarai deriso. Se scegli di seguire Gesù e di seguire lo Spirito Santo, a un certo punto inevitabilmente persone ti punteranno il dito e ti giudicheranno per quella che è la loro analisi superficiale di quello che tu vivi e quello che tu fai. Probabilmente ci sono persone che in questo luogo, questa mattina, hanno la propensione a deridere tutto questo, a giudicare all'apparenza quello che noi stiamo facendo. Ma non permettere allo spirito di giudizio, all'accusa, alla superficialità delle persone di determinare la tua scelta di continuare a seguire Gesù. E questo è stato ciò che ha caratterizzato i discepoli. I discepoli, sicuri e convinti di quello che stavano vivendo, si alzano tutti e 12 insieme. E uno di loro, Pietro, comincia a parlare, alza la voce e comincia a predicare un messaggio a tutta la folla presente. E questo messaggio ha una potenza e una sicurezza e trasmette un'autorità incredibile che, come andremo a leggere, tutta la folla passò dalla derisione, dal giudizio, a essere colpiti nel cuore, a essere consapevoli che quello che stavano vedendo e ciò a cui stavano assistendo era qualcosa di meravigliosamente divino, ed era Dio che era presente lì e stava dando a loro ancora un'occasione di salvezza. Gesù è qui per darti un'occasione di salvezza. Gesù è qui per dirti non essere giudizioso all'apparenza. Prendi quello che è il dono che il Signore vuole darti. E quindi Pietro fa questo discorso, ed è un discorso molto, molto complesso. Non abbiamo il tempo di andarlo a leggere tutto, potete leggerlo a casa nel capitolo 2 di Atti. Però quello che è il succo è una delle cose nelle quali l'Apostolo Pietro diventa insistente, è il messaggio della resurrezione di Gesù Cristo. L'Apostolo Pietro insistentemente, posso citarvi versi, verso 24, verso 27, citando Davide, perché quello che Pietro fa in questa predicazione è quello che stiamo vivendo noi ora in questo momento. Cita dei versi della Bibbia, racconta e contestualizza quei versi e spiega alle persone il senso della venuta di Cristo Gesù e quello che è stato l'errore commesso nel crocifiggerlo e giudicarlo. E Pietro, citando Davide nel Vecchio Testamento, insiste nel verso 27, poi nel verso 31 e nel verso 33 per dare uno stesso messaggio, che è questo: Gesù è vivo. Gesù è risorto. Quel Gesù che voi avete crocifisso, quel Gesù che voi avete giudicato, quel Gesù che voi avete visto su quella croce appeso, quel Gesù che avete visto morire, è risorto, perché Cristo Gesù non poteva, parole di Pietro, non poteva essere trattenuto dalla morte. La morte non lo poteva tenere. Perché Gesù non poteva essere tenuto dalla morte? Perché è morto per i nostri peccati, ma lui è stato santo. E noi sappiamo che la morte è il giudizio per il peccato della nostra vita, e Gesù non poteva essere trattenuto dalla morte in quanto lui era senza colpe e senza peccato, ed è per questo che è risorto. Ed è il messaggio di noi questa mattina: Gesù è vivo, Gesù è risorto, e il fatto che lui è risorto dà a noi la speranza di essere vivi con lui. La Bibbia dice che se tu la condizione nella quale tu ti trovi purtroppo è una condizione di morte. La Bibbia dice che non basta che tu respiri e che ti muovi e che cammini e che lavori per essere definita una persona che è viva. La Bibbia definisce te morto. Morto perché? Perché vivi nella tua ribellione e nel tuo distacco da Dio, e nella tua vita autonoma rispetto a Dio tu, anche se respiri, anche se ti muovi, anche se lavori, anche se pensi, in realtà sei morto. Purtroppo questa è la verità che Pietro rivela anche alle persone che lo stanno ascoltando, ma dà una speranza: quel Gesù è vivo e anche voi potete essere vivificati in lui. E questa è la mia speranza, questa è la tua speranza oggi. Questo è quello che io vivo, questo è quello che loro vivono. Loro sono vivi, non perché respirano e camminano, ma vivi perché Gesù Cristo ha rinnovato in loro completamente quello spirito che era morto. Loro sono vivi perché hanno accettato Gesù Cristo. Questa mattina voglio leggere con voi queste parole. E andiamo a leggerle dal versetto 37. Potete leggere con me la Bibbia, quindi proprio questo, parte di questo discorso di Pietro, è solo la parte conclusiva del discorso di Pietro, e poi quello che succede dopo, ed è stravolgente, incredibile. Leggiamolo insieme. Questo Gesù, dice Pietro alla folla, questo Gesù Dio lo ha risuscitato. Di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. E si sta riferendo a questa manifestazione che vi ho appena descritto dello Spirito Santo. E poi aggiunge: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele. Tutta la casa di Israele, tutto il popolo di Israele, tutte le persone che lo stavano ascoltando, sappiate dunque, questo è quello che Pietro sta dicendo, sappiate dunque che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Furono compunti al cuore, ed è quello che vi descrivevo prima, dal giudizio, dal deriderli, dal prendere alla leggera quello che stava accadendo, vengono toccati dalla predicazione dell'Evangelo e dicono: ci rendiamo conto, siamo stati ribelli a Dio, ci rendiamo conto, abbiamo vissuto una vita autonoma da Lui, ci rendiamo conto, siamo stati persone che hanno creduto meglio di quel Gesù che cosa fosse giusto fare, e l'abbiamo crocifisso. La risposta di Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E poi aggiunge: perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole, Luca non ha la possibilità di scrivere tutte le parole che Pietro ha espresso, con molte altre parole, vedete, li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. E poi conclude dicendo: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Non è incredibile? L'opera dello Spirito Santo in questo giorno è stata meravigliosa. Queste persone sono state compunte al cuore e cambiate per sempre. Qualche verso dopo noi leggiamo che queste migliaia di persone avevano una vita completamente diversa. Avevano amore nel loro cuore, avevano generosità. La società di Gerusalemme è stata rivoltata come un calzino, letteralmente. Le vite di queste persone non erano semplicemente toccate, compunte al cuore e affascinate dal discorso di Pietro, ma le loro vite, attraverso il battesimo in Cristo Gesù, sono state rivoluzionate e cambiate da dentro a fuori. E questa è l'opera di Gesù. Questo è quello che Lui può fare. C'è speranza per il tuo cambiamento. C'è speranza per il mio cambiamento. Qualche giorno fa ero per strada e parlavo con una persona e questa persona diceva: sai Mirko, le persone migliorano, al massimo migliorano, ma non cambiano. E io ho dovuto correggere questa persona e le ho detto: sai, questo nella logica umana è vero, ma con Cristo Gesù le persone cambiano. Con Cristo Gesù i nostri pensieri cambiano. Con Cristo Gesù i nostri sentimenti cambiano. Con Cristo Gesù la nostra storia cambia. E questa non è una favola di 2000 anni fa. E non è stato vero solo per il popolo e per gli abitanti di Gerusalemme. È vero oggi anche per i cittadini di Modugno. È vero oggi anche per coloro che sono della provincia di Bari. E accettiamo anche quelli della provincia di Taranto, visto che ce n'è qualcuno, no? Benvenuti ai Mottolesi. C'è speranza per te, anche se vieni da Milano, Lidia, o non so, qualche altra, perché non vorrei lasciare nessuno fuori da questa... Da Vicenza c'è qualcuno, quindi dalla Sicilia, abbiamo tutta l'Italia, quindi posso darti questo messaggio. C'è speranza di cambiamento per tutti noi, ancora oggi. Non è stato vero solo 2000 anni fa. Il messaggio di Cristo Gesù cambia e stravolge la nostra vita oggi. C'è stato un punto di svolta, c'è stato un cambiamento enorme nella vita di queste persone che hanno udito il messaggio di Pietro. E il punto di svolta è racchiuso in una domanda che queste persone fanno. E io voglio soffermarmi su questa domanda, perché è come se, leggendo questi versi, studiando questo passo della parola di Dio, il Signore ha voluto mettere in evidenza queste parole, questa domanda. Li sentiamo deridere, schernire, dichiarare calunnie nei confronti dei discepoli da parte di questi giudei, sono ubriachi, sono fuori di senno, e poi li sentiamo riparlare con parole completamente diverse. E la domanda di queste persone che ascoltano la predica di Pietro è questa: cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? E ciò che ha suscitato interesse in me è il fatto che le prime persone che si sono convertite, che si sono battezzate, hanno avuto cambiamento nella loro vita, lo hanno avuto alla luce di questa domanda. Questa domanda ha determinato per loro il reale cambiamento di vita. A un certo punto si sono chiesti: cosa dobbiamo fare? L'avete letto con me? Lo vogliamo rileggere? A un certo punto, udite queste cose, lo abbiamo messo pure in grassetto, quindi lo leggete con me: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, cosa dobbiamo fare? L'attitudine che porta a salvezza non dice: io so cosa è già meglio per me. Un'attitudine che porta a salvezza e a cambiamento non dice: io so cosa mi salverà in questa vita. E magari la tua risposta saranno più soldi, una carriera, un lavoro fisso, una casa, un'automobile, la giusta moglie, la giusta famiglia. Puoi darti queste risposte e rimarrai illuso nella tua autonomia e nella tua ribellione a quello che la parola di Dio dice. Un'attitudine che porta a salvezza non dice: io so cosa scegliere meglio. Un'attitudine che porta a salvezza non dice: io so, io so, io so, io so. Un'attitudine che porta a salvezza dice: io non so. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Questa è stata la caratteristica che ha portato a salvezza queste migliaia di persone in quel giorno. E questa è l'attitudine che porterà a salvezza la tua vita. Se tu smantelli e ti disarmi e ti svesti di quell'arroganza, di quell'orgoglio, di quella convinzione di sapere meglio di Dio che cosa è meglio per te, di sapere meglio del tuo creatore cosa ti porterà a vita piena, a non respirare e muoverti solamente, ma a ricevere vita interiore, quando tu smetterai di vivere questo tipo di illusione nella quale tu credi di poter essere al centro della tua stessa vita, e cominci ad abbracciare invece quello che abbiamo cantato questa sera, a dire: io voglio Gesù al centro, allora lì le cose cambieranno. L'attitudine che porta a salvezza riconosce la propria condizione, chiede aiuto e vive ubbidienza. Lo ripeto, l'attitudine che porta a salvezza, e questo vale per te che non credi ancora in Cristo Gesù, ma vale per te anche che credi in Gesù e sei da tempo in chiesa. La tua salvezza, il tuo rinnovamento parte dal tuo riconoscere la tua condizione, riconoscere che hai peccato, riconoscere quali sono le mancanze della tua vita. Chiedi aiuto, chiedi aiuto, chiedi aiuto. Chiedi aiuto a Dio, chiedi aiuto ai fratelli, chiedi aiuto e vivi ubbidienza. Quello che queste persone hanno fatto alla richiesta di aiuto, rivolta a Pietro e ai discepoli, hanno poi ubbidito. Si sono ravvedute, si sono battezzate, sono cambiate per sempre. Quando smetti di farti questa domanda, smetti di camminare, smetti di correre, smetti di crescere e di conquistare. E noi sappiamo che in quest'anno crediamo che il Signore ci sta chiamando, ciascuno di noi individualmente a nuovi territori di conquista. Lui ha previsto per te che tu cammini anziché tu corri. Dio ha previsto per noi come Chiesa che noi conquistiamo nuovi territori, che noi camminiamo, che noi corriamo. E per correre, per camminare, dobbiamo necessariamente chiedere a Dio, allo Spirito Santo, cosa dobbiamo fare. Tu devi chiedere: che cosa devo fare per il mio matrimonio che è instabile, Che cosa devo fare per educare meglio i miei figli? Che cosa devo fare per vivere una vita significativa su questa terra? Che cosa devo fare per servirlo meglio? Che cosa devo fare per avere le giuste priorità quotidiane? Che cosa devo fare per vincere questo vizio, per vincere questo peccato nella mia vita? Nel momento in cui tu riprendi a fare questa domanda nella tua vita, tu riprendi a cambiare, a camminare. Tu riprendi a conquistare quelli che sono i territori che Dio ha per te. Forse oggi deve essere la prima volta nella tua vita dove devi chiederti che cosa devo fare, che cosa realmente Gesù vuole da me. Al di là di quello che ho sempre sentito di Lui, al di là della tradizione, al di là delle religioni, che cosa Gesù, il Salvatore, colui che si dichiara la via, la verità e la vita, che cosa vuole Lui che io faccia? E questa sarà la salvezza per te non solo in questa terra, ma per la vita eterna. Perché questa è una piccola, insignificante parentesi. E solo quando vieni posto davanti alla morte ti rendi conto che può essere un giorno di festa o un giorno di reale lutto. E proprio Sara ha detto, no? La mancanza del fratello Renzo è per noi qualcosa che porta tristezza, è stato una benedizione per molti di noi, ha portato l'Evangelo in questa parte d'Italia. Eppure nel lutto, nella sofferenza, nell'angoscia della mancanza che noi viviamo, al tempo stesso gioiamo e festeggiamo, perché sappiamo che Lui è con il Padre, perché sappiamo che Lui è in un posto migliore e lo sarà per l'eternità, perché questo è quello che la Bibbia dichiara. Purtroppo non lo possiamo dire per tutte le persone. Qual è la tua condizione? Quale sarà la tua condizione in eternità? Sarà in gioia eterna o in lutto e in dolore eterno lontano da Dio? Oggi scegli di chiederti che cosa devo fare. È una delle frasi che con insistenza l'Apostolo Pietro dice: salvatevi da questa generazione perversa. L'abbiamo letto, lo dice, Luca lo esprime dicendo con molte parole, con tanta insistenza. Pietro in quel discorso dice: salvatevi da questa generazione perversa. Chi sta guidando la tua vita? Chi sta guidando le tue scelte? Chi sta guidando i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti? Da chi sei guidato? Chi determina di dare risposta a quella domanda? Che cosa devo fare? Perché non basta fare la domanda: che cosa devo fare del mio matrimonio? Che cosa devo fare della mia situazione economica disastrosa? Non basta fare quella domanda, ma è importante farla alla persona giusta. E ascoltare la voce di colui che ti ha creato e vuole il meglio per te, e non di questa generazione. Io vedo matrimoni sfaldarsi, io vedo famiglie distruggersi, ed è probabilmente perché sono arrivati a quel punto dove chiedono che cosa devo fare con il mio matrimonio, ma fanno quella domanda alla persona sbagliata, e hanno i suggerimenti sbagliati, e accendiamo la televisione e siamo influenzati dalla generazione che ci circonda. E Pietro continua a predicare oggi: salvatevi da questa generazione perversa, salvatevi dalla generazione perversa che vi circonda, salvatevi da quella che è la mentalità comune, perché anche se sono in milioni a fare un errore, quell'errore non cambia perché la maggioranza lo sta facendo, rimane un errore. Non cadere nell'errore di seguire una generazione perversa. Pietro dice, con questo voglio concludere: ravvedetevi e battezzatevi nel nome di Gesù Cristo. E queste due cose vanno di pari passo, e abbiamo motivo di festeggiare per questi tre cari, perché il battesimo non è un atto esteriore che cerca di gratificare Dio e attirare la sua attenzione su di noi. Il battesimo è un atto esteriore di quello che è una rivoluzione, un cambiamento interiore. Il battesimo è una manifestazione, è un simbolo di qualcosa che è accaduto già nel cuore della persona che vive il battesimo. Prima c'è bisogno di un ravvedimento. Per questo battezziamo da adulti, e in nessuna parte della Bibbia leggiamo di bambini che sono stati battezzati, perché la Bibbia dimostra che è importante che noi viviamo ravvedimento prima e battesimo dopo. Noi oggi siamo qui per festeggiare il ravvedimento. E sapete cosa significa questa parola? Cambia il tuo modo di pensare. Cambia il tuo modo di ragionare. Questo è il vero significato di questa parola, dal greco. Stamattina cambia il tuo modo di pensare. Stamattina scegli di afferrare una nuova mentalità. Datti occasione di non vivere più in quell'autonomia, in quell'arroganza, in quell'egocentrismo, ma datti occasione di arrenderti a Cristo Gesù e avere un cambiamento di mente. Io voglio concludere questo messaggio leggendo da voi, sempre leggendo per voi, sempre dalla parola di Dio, dalla Bibbia, Proverbi 3, versetto 6 e 7. E io credo che questo è un verso che è per ciascuno di noi. Dalla prima fila all'ultima fila, le persone che sono in piedi, dietro, ognuno di noi, che legga questo verso, perché io credo che lo Spirito Santo questa mattina ti vuole dire qualcosa di specifico per la situazione che stai vivendo, per le circostanze nelle quali ti trovi, per quello smarrimento e quel buio interiore che vivi. La Bibbia dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Posso rileggervelo con tutto il cuore, perché io ho sentito proprio come il Signore avesse voluto dire a me queste parole. A dire: non stimarti saggio da te stesso. Non dipendere dal tuo discernimento. Non ritenerti autosufficiente nella tua vita. Riconoscilo, riconosci la Chiesa, confida nel Signore, dice la parola di Dio, con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Questo è salvezza per te, questo è salvezza per me. Chiediti questa mattina cosa devo fare e chiedilo alla persona giusta, a Cristo Gesù, che vuole la tua salvezza eterna. Ci vogliamo alzare in piedi. E prima che andiamo a vivere questi battesimi, che sarà una bellissima occasione, io voglio pregare per ognuno di noi. E la preghiera non è altro che quell'occasione che ci diamo di parlare e avere un filo diretto con Dio. E Lui, che tu ci creda o no, è qui presente, Lui ascolta perché è vivo e Lui ascolterà questa mia preghiera, e io spero che tu possa accogliere questa preghiera nel tuo cuore e che possa determinare un cambiamento nella tua vita. Vogliamo chiudere i nostri occhi, abbassare il nostro capo in segno di rispetto. E Padre, io vengo davanti a te a nome di tutti noi qui riuniti, e Spirito Santo, io prego che tu possa guidare le nostre vite. Padre, io sento di pregare in modo particolare per chi questa mattina è venuto con un'angoscia interiore, con una situazione, una stagione buia della sua vita. Padre, che tu possa tornare ad essere quella luce, che tu possa illuminare le giornate di questi tuoi cari, di questi tuoi figli, e che tu possa permettere a loro di ravvedersi e di tornare a te con un cuore sincero, e che con tutto il cuore ciascuno di noi in questa sala possa riconoscerti in tutte le nostre vie. Padre, tu sei il Re Supremo, tu sei il Signore e sei il Cristo, come abbiamo letto, e noi crediamo che se tu rimani sovrano nelle nostre vite saranno al sicuro, non solo su questa terra, ma per l'eternità. Per questo io prego, Padre, per ogni persona, per ogni matrimonio, per ogni famiglia, per ogni situazione, che sia di malattia o di angoscia, nel nome di Gesù, che tu possa essere al centro di queste situazioni e che ognuno di noi possa rimetterti al centro, in diritto e in una posizione nella quale tu hai la possibilità di dirci che cosa fare. Questa è la nostra preghiera questa mattina, Signore Gesù. Dicci tu cosa dobbiamo fare, perché noi vogliamo seguirti e fare quello che tu ci comandi. Grazie Gesù, a te la gloria e l'onore. Amen.